il passaporto per fare un lungo viaggio e in fretta devi andare. Che lunga fila nell'ufficio passaporti mi dovrò cibar, ma che far, tutti sono pieni d'urgenza, bisogna aspettare. Con la calma amico mio ci arriverai. Ci sono artisti, professori, calciatori, c'è perfin quel tal che vorrà in bicicletta viaggiare da Como a Zanzibar. Mi serve il passaporto per fare un lungo viaggio in Cina, in Scandinavia, nel Brasile, nell'Equatore. Soltanto! Ed anche al Polo Nord. Non sono un commerciante né folle esploratore, ma datemi lo stesso il passaporto per favore. Per far che? Per ritrovar l'amore. Da quando mi lasciò più vivere non so, se non la troverò indietro non ritornerò. No, no, no. Scusatemi se insisto, ma qui mi serve il visto per i Paesi Bassi, il Canada, per il Giappone. Dovunque cercherò l'amor, mi serve il passaporto per far felice il mio cuore. Scusatemi se insisto, ma qui mi serve il visto per i Paesi Bassi, Canada, per il Giappone. Dovunque cercherò l'amor, mi serve il passaporto, mi serve il passaporto per far felice il mio cuore.